gettare i fiori nel mare. Per lei vorrebbe dire pregare per dei morti e mettere una lapide ad una fiducia che invece Susi vuole alimentare, anche dopo aver sentito dalle parole di sommozzatori e vigili del fuoco cosa sia la Concordia ora al suo interno. Un ammasso di mobili, di sedie, di tende, in dei cunicoli, ci sono effetti personali di abbigliamento, valigie, a volte galleggiano, a volte sono affondate. Avete però capito quanto velocemente l'acqua è entrata dentro la nave da quel tipo di squarcio? È uno squarcio di dimensioni enormi. Quindi 70 metri, no? All'incirca, sì. Secondo lei? Il resto dell'acqua è stato veramente fulmineo in grande quantità. Abbiamo dei corridoi che sono diventati dei pozzi, abbiamo delle porte che sono diventate delle botole, tutti gli arredi ovviamente non stanno più al loro posto, per cui c'è un caos indescrivibile. Cosa che rende estremamente complicato per voi operare, e lei diceva è come una casa messa sotto sopra. Il fatto che tu cammini sulle porte e hai il soffitto e il pavimento come pareti, ovviamente con una certa inclinazione che rende anche difficili questi passaggi. Dov'è che si stanno cercando soprattutto i dispersi? Nelle zone di riunione per l'abbandono nave. E proprio lì hanno trovato alcuni corpi, vicino al Ponte 4, a pochi metri dalle scialuppe e dalla salvezza. Indossavano gli abiti da sera e sopra i giubbotti di salvataggio, che non sono bastati però a metterli in salvo. La sua salvezza invece, Giuseppe Girolamo, batterista di Albero Bello, l'ha ceduta ad un bambino insieme al posto nella scialuppa, e lui è sparito mentre i parenti tappezzano di foto e volantini le strade. La gente del Giglio le guarda, sospira e rivive la notte che ha marchiato la storia dell'isola. Mi hanno chiamato al telefono, mi hanno detto: Alba, vieni su che la nave costa è andata nei scogli. Come dico la nave costa è andata nei scogli? Sì, mi sono alzata scalza, col pigiama, mi sono messa un giacchetto, sono andata lassù, ho detto: mamma mia, che disastro. Io guardavo il fumaiolo che leggermente si inclinava. Quindi quando lei ha visto la nave, allora proprio erano in corso anche le operazioni sì, di evacuazione. Subito, sì, la gente che urlava, ma io me li sento sempre negli orecchi. Si vedeva sta fila di persone che scendeva, la gente che si è buttata in mare, perché tanta gente si è buttata in acqua, quegli scogli là, che le persone che erano in mare con questi salvagenti e le lucine che facevano sì e no, sembrava una processione. Ha raccontato ieri mio padre che erano lì e stavano cercando di far scendere le persone. C'era una scialuppa che aveva una cima incagliata nell'elica. A quel signore che era vicino gli ha detto: ma guarda un po', di un po' a quello che è di bordo se manda qualcuno a levare la scialuppa, perché aveva una divisa a bordo. Gli ha detto: ma andate a levare la cima dentro la scialuppa, che così può ritornare a prendere le persone. Detto mio padre, questa persona dopo un attimo è sparita e non l'hanno più vista. Lei quella sera dall'isola è andato a bordo della nave? Sì, sì. E che situazione si è trovato? Di confusione, di non controllo. Sono andato in giro per la nave per cercare gli ufficiali. Perché... E dove erano gli ufficiali che dovevano dare le indicazioni per l'evacuazione? Non ne ho trovati. Alla confusione di quella notte è subentrato il silenzio all'interno della Concordia, che sembra dormire. I soccorritori cercano di spezzarlo quel silenzio, inviando segnali sonori nella speranza che qualcuno risponda laggiù. Al silenzio funereo dei saloni, dove fino alle 21:40 di venerdì 13 suonava invece l'orchestra, fa da contraltare il gran movimento al porto, quartier generale di soccorsi, cantiere per scongiurare un disastro pure ambientale, nel timore che la nave, che si muove, come registrano i tanti sistemi che la monitorano, si inabissi con le sue 2000 tonnellate di carburante nella pancia. In realtà la contaminazione di quei fondali, cari ai sub, di fatto è già avvenuta, come ammette il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sbarcato sull'isola da neocommissario di questa emergenza. Un'imbarcazione di 300 metri che portava 4.000 persone, tutto quello che necessitava, è a mare. Quindi la contaminazione dell'ambiente, signori miei, è già avvenuta. E questa è la grande paura del Giglio, che da quel venerdì 13 gennaio si sveglia e si addormenta ogni giorno guardando il gigante adagiato sulle sue coste, con un brivido di cui il sindaco Sergio Ortelli si fa portavoce. Il progetto di svuotamento è pronto, i tempi non sono così certi. Lei ha chiesto anche delle rassicurazioni sullo spostamento, sulla rimozione del relitto. Sì, ho chiesto velocità nelle operazioni, i tempi della rimozione del relitto sono